Io come abitante del nord mi sento poco sicuro, cioè vedo poca rappresentanza della forza dell'ordine in giro e volevo sapere cosa ha in mente la Lega per fare queste cose meglio, insomma. La Lega e il governo, cioè potenziare, ministro, c'è un potenziamento per esempio delle forze dell'ordine, e le chiedo anche, visto integrando la domanda di Angelo, la questione dei militari che potranno andare per le strade per implementare le forze dell'ordine, come la vede, secondo lei che immagine è? Beh, la vedo bene, l'abbiamo messo in un provvedimento del governo, se non la vedessi bene ci sarebbe un problema. Noi abbiamo due tipi di intervento, uno di tipo strategico e uno di tipo contingente. Quello di tipo contingente è il potenziamento delle forze dell'ordine, recuperando 3.000 tra poliziotti e carabinieri che saranno sostituiti appunto da questi 3.000 militari presidio, che so, delle ambasciate di Roma, da mettere a presidio dell'ordine pubblico. Quindi questi 3.000 militari che saranno utilizzati servono appunto per liberare, per questioni di ordine pubblico, 3.000 tra poliziotti e carabinieri, e questo è l'intervento contingente. Ma l'intervento strategico è un altro. Noi pensiamo che nelle città, piccole o grandi, il controllo del territorio è il mezzo migliore per combattere la criminalità diffusa, quella di cui l'ascoltatore ha paura. Lui non ha paura della mafia o dell'andrangheta, ha paura di chi gli può entrare in casa di notte e rischiare di tagliargli la gola per portargli via le cose che ha in casa. Per fare questo c'è un solo modo: controllare e presidiare il territorio. È per questo che l'intervento strategico che abbiamo previsto nel decreto è il concetto di sicurezza urbana. D'ora in avanti la sicurezza urbana sarà considerata un capitolo specifico della sicurezza, e questo capitolo sarà affidato al sindaco, in quanto è l'autorità che meglio di chiunque altro conosce il territorio. Gli diamo nel decreto strumenti operativi, consentiamo alla polizia locale di svolgere alcune funzioni di polizia, mettiamo a disposizione della polizia locale le banche dati, per esempio quella sui permessi di soggiorno, perché la polizia locale possa controllare meglio anche chi vive, chi gira nei comuni, e soprattutto gli diamo nella legge finanziaria l'anno prossimo risorse. C'è un capitolo specifico, 100 milioni di euro, per finanziare proprio questo nuovo capitolo della sicurezza urbana. E io credo uno degli interventi più importanti per garantire la sicurezza dei cittadini. Mm.